Io sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Ci devono stare i soli milanesi. Lei intanto ha appoggiato il piduista. Lei prende la metropolitana a Milano qualche volta? Lei sì. Prende la 90-91 dove c'è gente che piscia in autobus? Ma quindi è ancora convinto di quella proposta? Io ho solo detto che non vorrei che dovessimo riservare dei posti alle donne incinte e agli anziani, visto questo che una volta c'era il problema non mi alzo per lasciare. Adesso non c'è il problema non mi alzo per far sedere l'anziano alla donna incinta, gli piscio sui piedi. E si sale il controllore. Massoni illuminati, società segrete, misteri ormai svelati. Ma quando mai si parla di un segreto alla TV, alla radio, nella rete, cani e porci ed anche tu. Triangolo, piramide, occhio onniveggente, la squadra, il compasso, la stella a cinque punte. Il comando ed il controllo è di questa società che governa questo mondo con la nera oscurità. Eppure attenzione, ci sono i massoni, i massoni. Giustizie e menzogne ci governano da sempre. La società è corrotta, di segreto non c'è niente. I politici e potenti sono uomini. Beh, l'intervista del giorno è quella che Gioele Magaldi, massone progressista, ha scritto un libro che esce in questi giorni, fa al Fatto Quotidiano. Gli ingredienti sono i soliti. Matteo Renzi è un wannabe, un aspirante massone, ma la sua iniziazione potrebbe essere imminente. Mario Draghi è al centro di reti massoniche influenti, è un protagonista di questi network. Giusta verità, illuminando il mondo dall'eterna oscurità, sono esseri speciali, diversi a volte strani. E il patto del Nazareno? Ma roba di bassa cucina massonica. Che attingono il sapere ed ogni loro verso, hanno doni di Dio, dei poteri e dei doveri, sono angeli, profeti e poeti, guerrieri. Draghi, Merkel e Weidmann sono preoccupati. Da questa preoccupazione nacque l'editoriale anti-Renzi del paramassone De Bortoli sul Corriere della Sera. Un editoriale ispirato dal massone Draghi in persona. Magari gli abbiamo messo un po' di inquietudine alle 6.33 del mattino. Capisco che sono argomenti scottanti da maneggiare con molta cura, ma parola di Gioele Magaldi, massone, che dice: non ho paura di quello che dico in maniera pubblica. Buongiorno a tutti, No, ma state tranquilli, è tutto a posto comunque, non... Sereni, state sereni. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, così come saluto Peter Bescapè in regia. Voglio subito chiedere a Vincino se è sereno. Sei sereno dopo tutto? Assolutamente sì. Cioè... Non ti ho inquietato un pochettino? No, non mi devo inquietare, dai, perché se sono tutti massoni siamo tranquilli. Effettivamente, tutti massoni, ma nessuno massone, quindi... Ma no, oltre, no, no, non è che nessuno è massone, ma siamo in buone mani. Siamo in buone mani, siamo ottimo. In buone mani, non è che un'Italia massonica, chi la fa fallire? Il Bilderberg, il Goldman Sachs, tutti, come dire... Siamo in una botte di ferro, in quanto tutti massoni. In una loggia di ferro. Siamo in una loggia di ferro, vi sembra giusto? I massoni della loggia di ferro. Apriamo subito il Parlamento alle 6.35 minuti. Abbiamo qua due noti. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Massoni, uno è Vincino, sapete, già presentato, e l'altro è Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Anche tu sei massone? Mai stato, purtroppo. Mai stato? Me. Sei un wannabe, come, sei come Renzi, un wannabe. No, no, neanche quello, neanche quello. Mi ricordo che mio padre mi diceva: guarda, è meglio non iscriversi neanche al circolo della bocciofila. Della bocciofila, mannaggia. Esattamente, così diceva mio padre, è una cosa che mi è rimasta in testa. Mannaggia, e che succederà mai in questi circoli di bocciofile? Ah, ecco, le peggio cose. Le peggio cose. Sto scherzando, però guardavo la fotografia dell'uomo che tu... Magaldi. Magari. Devo dire che la fotografia racconta già molto, non voglio essere l'ombrosiano. Sei l'ombrosiano, ma come? È un libero muratore di matrice progressista. Cioè. Io, su Panorama tanti anni fa avevo fatto una cosa di cui non sono tanto orgoglioso, perché fu un piccolo scupettino, un segretario di partito mi raccontò, io lo raccontai sul giornale, ovviamente, di essere un massone in sonno, e passò dei guai, cioè in sonno vuol dire non si esce mai del massone di ma non partecipava più alle riunioni, ai incontri. Gli hai fatto passare un male di guai. Mamma mia, povero uomo. Vincino, vedi, sono cambiati i tempi. Invece adesso sono tutti. No, ma là, quello era Berlusconi. Chi era? Il suo editore. Non lo so chi era. Il segretario di un partito era Valerio Zanone, un bravissimo. Zanone, l'avresti mai pensato, Vincino? Assolutamente sì. Liberale e repubblicano praticamente era la doppia tessera obbligatoria. Cioè, tessera dei liberali e della massoneria. Dei repubblicani. Dal punto di vista ideologico, ideale, diciamo così, si vede meglio. C'era una logica affinità. Insomma, vabbè, ma adesso Vincino, che lo sai, ti fai una nuova idea di Valerio Zanone, oppure tu che l'avrai incontrato mille volte? Valerio Zanone lo sapevamo, credo che forse avevo letto anche il pezzo sul Panorama di 83 anni fa, non è che non così canti, dai su, dai, c'ha solo 70 anni Tortorella, adesso non è che... Ma se anche l'Andrangheta giura su Garibaldi, la marmora. Non è che è la marmora, scommetto che non lo sai. Te l'immagini nell'Aspromonte, ma chi minchia è tu la marmora? Ma come? No, i bersaglieri. Ho capito. Ho capito. Vabbè, ma comunque non siete. Io la trovavo l'intervista del giorno, farà un po' discutere. Vabbè, ma insomma, già questo quello che ha detto Gioele, magari. Di niente, non ve ne frega niente. Vincini e io preferiamo Gioele Dix magari. Assolutamente molto meglio. Molto meglio. Ma poi la notizia del giorno è Civati che presenta un libro contro Renzi. Ma cosa fa Civati? Si è diviso da se stesso. Cosa fa Civati? No? Con quella bocchina là, ciu. Allora, dammi un giudizio politico su Civati, Vincino. Sì, ciu, lui è proprio... No, ho detto un giudizio politico. È più politico di questo, come dire. Il giudizio politico è ciu. Vabbè, è così, è un giudizio politico. Senti un po', Maurizio, sai dove va Vincino questa sera? Ma stasera vai ancora da Giulia Innocenzi? Mi domando come faccia. Come fai ad andare? Ma perché come fai? Piccolo contrattino. Però perché è bella, dai. Ma no, c'ha il contrattino, quindi lo paga. Allora giustificato. Mi dà come qua stamattina senza contrattino. Contrattino. Contrattino. Ma è cosa? No, cosa? Ma lei è deliziosa poi, assolutamente. Ma certo. Sei già innamorato. Vincino, sei già innamorato di Giulia Innocenzi. Un libero pensatore come lui, e uso il termine massonico. No, ti sei già innamorato, Vincino, di la verità. Smentisco, assolutamente. No, è lei che è innamorata. Forse è Giulia Innocenzi che è innamorata di Vincino, vai a saperlo. Comunque un libero pensatore come Vincino, sì. Un libero pensatore come Vincino, che va a infilarsi in una zona così faziosamente ideologica. Ma no, ma dai, ma Maurizio, no. Ma dai, ma lui va lì e... sei fazioso. Le vignette che faccio, infatti non ridono nessuno. Cioè, tu fai le vignette, no, quanti ridono quando fai una vignetta tu? No, non lo so, servito d'entrare assai, comunque se mano devo prendere la mano, devo capire come... E poi ci sono 20 ragazzini, no? Che poi alla fine femmine, alzano, a lui piacciono le femmine. 20 ragazzini e 10 ragazzini, no? E poi alla fine si alzano e ballano tutti insieme. Con la musica del... Ma di la verità, Vincino, adesso di la verità, dai, fai una confessione, tanto non ci ascolta nessuno. Ma tu lo sapevi delle Femen la scorsa? Ecco, tu lo sapevi? No, io ero l'unico a non saperlo, ma... Gli altri sì, lo sapevano tutti. È certo che ha apprezzato, insomma, apprezzato molto. Oddio, come dire, sai, è come, cioè, c'è sempre il momento del lava spettacolo nei vari tanno, per cui arrivo e quindi c'è anche questo. Vabbè, allora dai, sentite chi non andrà al no, ecco, sentite Salvini. Ecco, io voglio capire, abbiamo iniziato con Salvini e ieri Salvini era a Salerno, ma vorrei capire se davvero Salvini, secondo voi, almeno dai sondaggi si dice, è l'uomo politico in questo momento del momento. Ieri Salvini da Salerno, un po' di applausi, un po' di contestazione, vai a Salerno, capisci che è Salvini. Eccolo, accolto così da alcuni. Vincino, è l'uomo politico del momento Salvini? Notare, assolutamente sì, ma notare la musicalità di noi del sud, no? Via, via, vattene via, via. Cioè, proprio è una cantata questa qua. Sì, che, vabbè. Potevano inventare uno slogan un filino più originale. Sì. Ma è musicale, però. Sì, però io come si fa a dire qualcosa di buono di Salvini? Maurizio, ci chiude la Padania, la nostra Aurora Lussana, che non sarà più direttore dal primo dicembre. La Padania, purtroppo chiude per motivi economici, sì. E a me capita in questo periodo frequentemente i giornali di carta in Italia, è un periodo. Io ho l'impressione, ma te l'ho detto, che Padania sia un termine che per la Lega in questo momento non va molto bene. Perché non sono più autonomisti, no, perché la Lega di indipendentisti. Ha virato su altri temi. Giusto, ce lo suggerisce Vincino, Nazionia. La Padania, io ricordo quando partì, aveva addirittura un corrispondente da Roma che era appunto per un considerato uno stato estero, provocatoriamente. Ah, certo, sì, sì, è vero, è vero. Era il nostro corrispondente dall'estero, da Roma. Dai, un Salvini che intelligentemente capisce che ci sono altri temi che raccolgono molto più consenso, la lotta contro l'euro, la lotta contro l'immigrazione indiscriminata, eccetera, eccetera, e su quei temi raccoglie sicuramente consensi anche al sud, che ne pensi da Salerno o altro, non è questo il punto, tant'è vero che noi abbiamo dedicato una copertina a Salvini qualche numero fa, i sondaggi lo davano già all'epoca, ed era un mese fa, ma certo, forte crescita, certo. E lui personalmente era accreditato di una fiducia superiore a quella di Grillo. È vero. Vincino, che c'è che non va in Salvini? Assolutamente, sto preparando un altro libro, La cavalcata di Salvini. Dopo la cavalcata di Renzi, la cavalcata di Salvini. Quella di Salvini. È l'altro Matteo. Aspettavo un competitor e il competitor sta arrivando dal fango del nord e via, esce fuori quest'uomo tutto... Senti, viene fuori proprio l'animo del sud che è la repulsione, no, per Salvini, le unioni, le cose, il limo, no, il limo è fertile e produce Salvini, paf. Vabbè, non ti garba. Saresti un po' come Pennacchi, no? Che ha litigato. Fesso e mezzo. No, Pennacchi, diciamo, è al di sotto della situazione, secondo me. È stata una scena pietosa, diciamo. Per tutte e due, ma soprattutto per Pennacchi. Per Pennacchi. Come fa? Senti un po', ma chi è che avete stasera? Chi è che c'è stasera ospite? Li sai, te li dicono? Non posso dire, sono tenuto al segreto professionale. Ma che segreto professionale? Nel contrattino c'è scritto. Non potrei dire nulla di questo, soprattutto dalla mattina da Lino. Proprio preciso le parole, guarda, adesso 30 pagine, no. Adesso vado sul Corriere della Sera, te lo dico io chi sono gli ospiti. Sei veramente peggio di un massone, vai, andiamo al traffico e poi gli dico io gli ospiti di anno 1 a Vincino, che manco li sa. Dai. 24 mattino. sono un po' stufo di queste polemiche delle donne al governo. Prima che avevamo la Bindi, le donne erano più belle che intelligenti. Adesso che abbiamo dei ministri di piacevole presenza, non va bene perché sono belle e incompetenti, se non stupide. Ma allora che cosa vogliono che vada al governo? La donna barbuta per far contenti tutti quanti? Che schifezza! Questa segreteria è diventata come la Pravda ai tempi di Brezhnev. Io ho provato varie volte a mettere la mia opinione sulle dimissioni di Napolitano e non è mai passata. Dico una cagata diversa, il giorno dopo è già in segreteria. Fate schifo, va! Aller, prefetto tronca, tronca, tronca, leon, leon, leon. Boom. Milan, io quando ho visto piangere la Turco, sinceramente mi sono toccato, perché l'ultima volta che ho visto un politico piangere è stata la Fornero, però poi di piangere ha fatto piangere noi altri, Ma speriamo bene questa volta. Mi faccio del male sentirti tutte le mattine. Tu sei il disinformatore dell'informazione. Se tu fai delle domande su Grillo, le fai al direttore di Panorama, cosa ti deve rispondere? Cosa vuoi che lui ti risponda? Sei un fazioso. M-I-L-A, N va a cagà e Milan va a cagà e Milan va a cagà, perché io per sempre nero azzurro resterò. Vabbè, Maurizio Tortorella intanto sei stato promosso a direttore di Panorama, vedi? Ce l'aveva con te, se non l'hai capito. Cioè, gli dici, chiedi dei grillini a Tortorella, e allora oggi chiederò dei grillini a Vincino, che ne pensi tu del... È cominciata la storia del tagliando, perché loro ogni fine mese hanno questo problema qua, il problema del tagliando tagliandino. Ma cos'è sta storia del tagliando? Ma io ti ho chiesto un giudizio sulle mosse politiche del Movimento 5 Stelle. Completa, guarda, sono riusciti in sei mesi, appena quasi nemmeno un anno, a dilapidare quasi tutto, completamente tutto. Vabbè. Vediamo ora quanto è, ma sì, è una cosa, in Calabria, il 5% se ci arrivano in cosa là in Romagna. Vabbè, comunque ci scrive un messaggio, un ascoltatore dice che pensavo che Vincino fosse di Brescia. Giuro, gnari. Ci scrive anche un ascoltatore. Io non lo so, ma vabbè, io sono al massimo vicino Savona. Vicino Savona. Io sono sconvolto invece da questa. Ma avete visto questa vicenda dell'Eternit su cui aprono tutti le prescrizioni? 3.500 morti. Tu sei sconvolto, siamo un po' tutti sconvolti, però obiettivamente. La Cassazione è quello che deve fare. Deve ma sì, ho capito, ma certo, è chiaro che lo scandalo è un processo di 25 anni, non lo so. C'è un altro processo in corso. Questo processo riguardava il disastro ambientale. Il disastro ambientale, ha ragione il procuratore generale della Cassazione, era totalmente caduto in prescrizione già dal 2012. Sì, ho capito, ma... Perché un reato che si prescrive in quel tipo... C'è un altro procedimento però penale, a Torino, e ne parla Guarinelli in qualche intervista abbastanza chiaramente, non su Repubblica dove non si capisce niente, ma altrove sì. Eccolo lì, la zampata contro Repubblica di tutto. Repubblica tra l'altro su questo processo si scatena, ma non si scatena su altri processi che trattano tra l'altro anche lì di amianto, ma riguardano altre aziende. È notorio che ci sono di più. Vabbè. Ma comunque c'è un altro processo per omicidio plurimo. Con aggravanti varie, vedremo lì. Lì adesso la Procura di Torino è stata apripista sul punto. Fa un po' specie vedere. Insomma, domenica scorsa scrive il Corriere della Sera: hanno seppellito l'ultima persona che è morta per mesotelioma. La storia sia sconvolgente, abominevole, vergognosa, non ci piove. Però la Corte di Cassazione, la giustizia, quello deve fare, è il diritto, non può, se no facciamo processi di piazza, ammazziamo la gente, la impugniamo Di piano, no, no, ma è chiaro che un processo che se va a durare anni e anni e anni, poi succede che c'è la prescrizione. Perché un processo è impostato male, come capita purtroppo tante volte. Vincino, che vuoi dire? Che vuoi dire su questo? No, questo qua, che i PM del secondo grado lo sapevano, sanno i tempi, sanno le cose. Loro potevano accelerare moltissimo, ma la prescrizione l'hanno in testa loro più prima della Cassazione, no? Per cui alla Cassazione era scontato, non è che... come dire, sei senza biglietto, via, non puoi entrare, grazie. Vabbè, comunque insomma ne leggeremo poi in rassegna stampa. Sentite qua Razzi, attenzione, perché Razzi dice: io al Quirinale no, Razzi si autocassa dal Quirinale. È uscito questo tweet ieri, Antonio Razzi, girano voci di una mia possibile candidatura al Quirinale, non c'è nulla di più falso. Noi era questa la buona notizia con cui volevamo chiudere, ma chi gliel'ha chiesto? No, ma chi gliel'ha chiesto di candidarsi? La gente ride. Twitter non l'ho aperto e non ce l'ho. Come non ce l'ho? È tutto falso quello che si dice. Ah, è un fake, ma ci aveva mai appena ho un Facebook. È un fake. Pensa, fa Razzi davanti alla frase: è un fake. Cosa sarà svenuto, Tortorella? È un fake. Oh, Razzi, è un fake. Sarà lì a chiedere: che minchia è sto fake? Grazie. Vabbè, Razzi è così. Un grande lettore come tanti. Vabbè, io vi devo salutare. La copertina di Panorama, io so che è su un tema, no, non c'è nella mazzetta. È una protesta ufficiale, formale, che devo fare subito. Sono i tuoi ascoltatori grillini che sicuramente hanno salutato. Vabbè, è stato un boicottaggio di un ascoltatore. Titola Meteo Crack. Riguardo ovviamente i disastri ambientali degli ultimi tempi, quelli provocati dalla pioggia. E ipotizza che siamo, ipotizza purtroppo quasi una certezza, saremo. Sarà sempre peggio. No, che sarà sempre peggio, io spero di no, ma temo di sì. E comunque saremo obbligati a fare l'assicurazione. Oh, l'assicurazione, infatti oggi Libero titola così, lo vedremo in rassegna stampa. Ci voglio mettere anche l'assicurazione obbligatoria. Insomma, piove, governo ladro, si può dire. Cioè, la tassa sulla pioggia, che devi fare? Vabbè, allora Vincino, in realtà allora Vincino? Sì, allora stasera ci sono ospiti Francesco De Gregori e il ritorno di Morgan. No, quello è X Factor, scusa. No, sai perché io in genere guardo. Morgan, siamo sicuri? No, non lo so, pare che torni. Lo danno indecisa. Stasera farò un po' zapping, un po' di qui, un po' di là. E poi ti saprò dire se torni. Va bene, grazie. Ovviamente anno uno stasera con Giulio Innocenzi e Vincino sulla 7. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7 e 18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Come sempre vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Beh, di quel caso di Assisi, di una scuola dove è successo che cosa? Un po' di robe strane, no? Quel professore che avrebbe alzato le mani di fronte a tutti dicendo: tu sei gay, a un ragazzo di 14 anni. Avremo ospite la preside ai nostri microfoni. Parleremo ancora di scuola e di questo tipo di rapporti così, un po' burrascosi tra insegnanti ed allievi. E poi avremo ospite, a proposito di spese pazze della regione, vi ricordate lui, Herr Batman, Francone Fiorito, sarà nostro ospite alle 8.35, sta per uscire un suo libro, Il Sistema, in cui racconta tutta la vicenda. Che ride Peter Beschever, ride, non lo so, si vede che sta pensando alla vittoria del Milan nel derby di domenica. Ride. Ora si tocca. Vabbè, insomma, siamo a questi livelli. Alle 7:19 minuti andiamo a leggere i giornali. Dai. È giovedì 20 novembre, intanto i titoli sono questi. Il Sole 24 Ore apre sulla manovra, tutte le modifiche, le novità dopo un vertice tra Renzi e Padoan. Mentre la vicenda dell'Eternit, 3.000 morti, nessun colpevole, questo è il titolo di Repubblica. Per il Corriere della Sera, nessuno pagherà per Eternit. La Stampa, Eternit, sentenza beffa. Il Secolo XIX, Eternit, strage prescritta. Queste alcune delle aperture su questo tema. Mentre per il Messaggero, evasione, cambiano le sanzioni. È un'anteprima che ha il Messaggero e la vedremo su un decreto che probabilmente settimana prossima approderà sul tavolo di Palazzo Chigi. Il Fatto Quotidiano invece insiste sul volo taxi al Tribunale dei Ministri, Pinotti, Quirinale, addio. Per Libero invece arriva la tassa sul maltempo, piove, governo ladro. Il Giornale invece riprendiamoci le case, la vicenda delle case abusive, abusivamente occupate meglio dire, mentre Avvenire fa una denuncia, poveri dimenticati, la manovra ignora gli indigenti che hanno fame, tagliato il fondo per gli indigenti. Il manifesto sullo sciopero generale, questo è il titolo, il generale che ci piace è lo sciopero di generale che è stato spostato al 12 dicembre, ma come dire, la terminologia più utilizzata oggi è sentenza shock, vergogna, sdegno. La prescrizione è quella cosa lì che accade in realtà drammaticamente dal punto di vista tecnico di giustizia non si può dire nulla, i termini di prescrizione sono termini di legge che vanno rispettati, ma certo fa scalpore e quindi i titoli parlano di shock, sdegno, vergogna. Sentenza shock, per esempio, è il titolo a pagina 17 del Sole 24 Ore, reati Eternit prescritti. E Filomena Greco, che abbiamo già sentito nel giornale radio, racconta sul Sole come arrivi alle 9 di sera la sentenza della Cassazione del processo Eternit. I giudici hanno annullato la condanna a 18 anni per disastro ambientale per Stefan Schmidaini, a capo della multinazionale elvetico-belga specializzata nella lavorazione dell'amianto. Reato prescritto già in primo grado, dicono i giudici. La decisione è arrivata dopo la Camera di Consiglio e dunque annullata la sentenza. Il reato di disastro ambientale è prescritto. Non ci sono colpevoli per una contaminazione ambientale gravissima, le migliaia di morti causate dalla patologia legata all'esposizione dell'amianto. Così cadono anche tutte le richieste di risarcimento danni per circa 90 milioni di euro. E dire che ovviamente ci sono le interviste a, per esempio, la donna simbolo della battaglia, Romana Blasotti Pavese, che ha 85 anni, 5 morti in famiglia per l'amianto e per il mesotelioma, la malattia adesso collegato. A pagina 3 di Repubblica dice: ho perso un marito, una figlia, una sorella, sono stanca di lottare ma non mi arrenderò. E anche sulla Stampa il suo volto molto rugoso di 85enne, però combattiva, lo è sempre stata. È lì a pagina 3 con il cartello strage Eternit giustizia, una giustizia che al momento invece per loro non è arrivata. Se il signor Schmidaini è così convinto di essere innocente, dice Romana Blasotti Pavesi alla Stampa, abbia il coraggio di venircelo a dire personalmente. Quando ho capito le parole del procuratore mi è venuto un nodo in gola, sentivo come un osso di pesca piantato lì e non riuscivo a liberarmene e ho dovuto bere un po'. Ora ho addosso una grande rabbia, non pensavo di provarla ancora, invece mi sento una forza per andare avanti. Tutto quello che abbiamo fatto per decenni deve lasciare il segno, perché il procuratore Guarignello tra l'altro fa sapere che è pronto a rilanciare con il processo bis per omicidio. E vi segnalo su questo tema l'articolo che Marco Imarisio racconta sul Corriere della Sera, pagina 6. Sapete che è successo domenica scorsa a Casale? Domenica scorsa a Casale è successo l'ennesimo funerale dei 3.000 e oltre morti di una persona morta per mesotelioma. Sono già 50 quest'anno, a distanza di così tanti anni dopo la chiusura dell'Eternit, che sono morti. 50 solo quest'anno. L'ultima vittima seppellita sabato, la sofferenza rimasta senza giustizia. Pagina 6 del Corriere. L'ultimo è stato Luigi Bozzo, nella chiesa di Roncaglia, c'era la sua famiglia e qualche abitante della frazione più piccola di Casale. Faceva il geometra, aveva 58 anni e il mesotelioma ci ha messo appena 3 mesi a farlo annegare nell'acqua dei suoi polmoni. La sentenza di ieri fissa un punto fermo in una storia che è un continuo atroce divenire. Ci saranno tutti i crismi di legalità, che dubbio c'è, ma le facce della gente che ieri piangeva disperata sulle scale del palazzaccio romano dovrebbero dire anch'esse qualcosa. Molte di queste persone, scrive Imarisio, sono venute a Roma per la prima volta in vita loro. Così come in questi anni si sono messe in coda all'alba sul Corso Valentino per salire sul pullman che le avrebbe portate alle udienze del processo a Torino. Lo han fatto perché credevano nella possibilità del risarcimento morale che ci ostiniamo a chiamare giustizia dopo aver assistito impotenti alle sofferenze indicibili dei loro figli, delle loro madri, dei loro padri. E c'erano tante persone. Sono morte di amianto a Casale, solo a Casale, 3.000 persone, senza contare quelle non dichiarate. In ogni paese se ne contano almeno una decina, più delle vittime del conflitto in Nord Irlanda. E si rischia davvero che tutto rimanga senza colpevoli. Per cambiare tema, oggi c'è un'intervista che Fabrizio D'Esposito fa al massone dichiarato Gioele Magaldi sul Fatto Quotidiano. Sono quelle interviste che piaceranno tanto ai complottisti, perché Gioele Magaldi, che sta per uscire con un libro sulla massoneria, è da oggi in libreria. Il titolo è Massoni a responsabilità illimitata, scritto per Chiare Lettere. Che scrive Gioele Magaldi e che dice, ma un gran classico, Renzi non è un massone ma un wannabe, un aspirante, ma la sua iniziazione potrebbe essere imminente. Sto leggendo a pagina 8 del Fatto Quotidiano. E ancora Draghi. Draghi è al centro di reti massoniche influenti, è un protagonista di questi network e di recente, anche quando De Bortoli, direttore del Corriere, era preoccupato per il patto del Nazareno, quell'editoriale fu ispirato al paramassone De Bortoli dal massone Draghi in persona. Vabbè, le logge, i destini Banca Italia, l'Europa targata Merkel, se siete appassionati di queste complottoni massonici, oggi sul Fatto Quotidiano c'è la descrizione di questo libro, trovate tutto a pagina 8. Mentre che succede? Una disavventura abbastanza incredibile in un paese che è diventato famoso in Italia soprattutto per il film di Claudio Bisio, Benvenuti al Sud, vale a dire Castellabate. Il titolo di Libero, ma anche del Quotidiano Nazionale, è Benvenuti al Sud non ride più, il pirata stavolta è il vice sindaco. Cioè, che succede? Succede che qualche giorno fa è stato travolto un 88enne, è stato ucciso in una strada poco illuminata, è stato travolto da 2 macchine, prima da una macchina, poi questo povero uomo è stato sbalzato nell'altra corsia ed è stato travolto anche da una seconda macchina. Mentre la prima macchina si è fermata, la seconda macchina non si è fermata, è andata avanti. È solo che la polizia municipale ha fatto le ricerche e alla guida c'era il vice sindaco Luisa Maiuri, che a questo punto è accusata di omicidio e omicidio colposo e omissione di soccorso. Luisa Maiuri, 49 anni, travolto e ucciso, il pirata è il vice sindaco anche per il Quotidiano Nazionale. La sua difesa in realtà è questa: non l'ho visto e credevo di aver colpito un pezzo di legno, la strada era poco illuminata. Sta di fatto che la vicenda ovviamente finisce su tutti i giornali. Alessandro Dell'Ortone scrive su Libero, mentre una mezza pagina la trovate anche sul Quotidiano Nazionale. Ma siamo al momento del premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata e riguarda le intercettazioni. Scrive Francesco Grignetti in un'intera pagina sulla Stampa, pagina 10, le spese pazze delle procure. Ora, non sono tanto i dati, sappiate che nel 2012 sono 141.000 le utenze telefoniche che sono state controllate, quindi non siamo un popolo di intercettati, come qualcuno va in giro a dire, 141.000, tra l'altro ci sono persone che hanno più utenze, ci sono dei criminali che hanno 5-6, quindi 141.000 utenze telefoniche, alcune corrispondono alla stessa persona. Comunque la cosa che fa arrabbiare è questa, per esempio i costi. Roma quest'anno ha intercettato 18.770 bersagli, Catania 6.200, cioè Catania ha intercettato un terzo dei bersagli telefonici di Roma. Perché allora Catania alla procura spende il doppio di Roma? Ecco, Catania paga il doppio di Roma con un terzo delle utenze controllate rispetto a Roma, le spese pazze delle procure. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Hello, this is George Clooney, and I also like listening to 24 Mattino. Grande, cominciamo a spopolare, eh? Avete sentito? D'altronde io e George abbiamo molte cose in comune. Ciao George, ci vediamo stasera. Allora, cari ascoltatori, rientriamo in noi. La vicenda della RAI oggi finisce sui giornali per che cosa? Ieri era il giorno della capitalizzazione di Rai Way. E succede che il CDA della RAI ha votato per fare un ricorso nei confronti del governo, cioè azionista della RAI, per i 150 milioni che il governo ha chiesto alla RAI di mancato canone versato per appunto contribuire. Sapete che c'è stata la polemica di recente. E che succede? Che il CDA della RAI vota un ricorso contro il governo. Il CDA della RAI però nel contempo si spacca, perché Luisa Todini, consigliere dimissionaria, cioè si dimette dicendo è una vergogna quando un manager non è d'accordo con il suo azionista, non è che fa un ricorso, si dimette. Questo succede in generale nelle normali aziende, ma appunto è la RAI, bellezza si potrebbe dire. Comunque, su queste tematiche ci sono molti articoli. Parla per esempio il direttore generale della RAI Gubitosi, intervistato da Alessandro Plateroti per il Sole 24 Ore. Con Rai Way ricapitalizzata la RAI, una giornata in qualche modo rovinata per Gubitosi. Doveva essere una giornata per il brillante debutto a Piazza Affari, ma la spaccatura nel consiglio della RAI, la decisione di far causa al governo contro il prelievo di 150 milioni di euro dal canone degli abbonati, si è immediatamente ripercossa sul titolo Rai Way. E Gubitosi dice: la scelta del ricorso contro il governo proprio il giorno del debutto di Rai Way non può farmi certamente piacere, non manda un bel segnale al mercato. Un'operazione ben gestita in ogni fase, il cui valore è stato immediatamente recepito dagli investitori, non può però passare in secondo piano. Insomma, fa capire Gubitosi, se non sei d'accordo con le decisioni, e questo lo dico dalla mia esperienza professionale, con le decisioni dell'azionista, te ne vai, il manager si dimette e non vota contro. Quindi in qualche modo dice: ha fatto bene Luisa Todini, hanno fatto male gli altri. Comunque il tema finisce su tutte le prime pagine del giornale, anche Repubblica. Rai, il CDA si ribella al governo, no al taglio di 150 milioni, e Todini lascia dicendo tutto ciò è immorale. Luisa Todini fa un'intervista proprio a Repubblica, pagina 7, intervistata da Leandro Palestini. È una decisione irresponsabile. Non ho ceduto alle insistenze di Fico, il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che avevamo qui ieri ai questi microfoni, che ha detto Todini si deve dimettere. Fico risponde a Todini: si è agitato un po' troppo con l'autunno in corso. Io ho anticipato solo di pochi giorni le dimissioni che avrei dato già entro fine autunno, dopo che sono stata nominata presidente delle Poste. Ma mi sono dimessa ieri perché mi si chiede di fare ricorso contro il mio azionista. Ed è per una questione di moralità che lascio la consigliatura RAI. Quella del CDA è una decisione irresponsabile che io non accetto. Vabbè, queste le polemiche. Gubitosi anche per il Messaggero. Con il Messaggero fa un colloquio e dice: basta anche con tutti questi TG. i cittadini ci chiedono di cambiare. Lui è fautore di quel piano di accorpamento delle testate RAI di cui parlavamo ieri. Vabbè, insomma, la RAI è ancora in prima pagina, ma in prima pagina finisce anche la legge di stabilità, perché come racconta il Sole 24 Ore in apertura con Marco Mobili e Gianni Trovati, ieri c'è stato un incontro tra Renzi e Padoan per le modifiche alla legge di stabilità. Quali sono queste modifiche? Intanto, dote extra da 400 milioni alla riforma degli ammortizzatori sociali, spacchettata però 200 milioni l'anno. Dimezzato a 75 milioni di euro il taglio di patronati e circa di 120 milioni invece di in arrivo per sostenere il Made in Italy. Soltanto 12 milioni invece per la nuova Sabatini, ma necessari per consentire l'erogazione di finanziamenti bancari per l'acquisto di macchinari anche dopo il 2016. Queste sono alcune delle modifiche. Quella che conquista il titolo sul Sole sono gli ammortizzatori, 400 milioni, ma in due anni. E però sulla legge di stabilità ci sono alcune cose che invece trovano spazio sia su Avvenire che sul quotidiano, credo, Repubblica. No, forse l'ho trovato sulla Stampa. Comunque, su Avvenire c'è una denuncia che è di questo tipo. Sono stati tagliati i fondi per il cibo e dunque sono stati dimenticati i 2.300.000 persone considerate indigenti, questo da dati Istat. Via i fondi per il cibo, denuncia Avvenire a pagina 6, eppure un italiano su 10 non ha di che mangiare. Roma però si accontenta dei fondi europei e di fatto è stato cancellato il piano nazionale per l'emergenza alimentare. Ovviamente c'è l'allarme degli enti caritativi che dicono ci resta solo la solidarietà della gente. Il 29 novembre per esempio c'è la colletta tipica del Banco Alimentare, ma chiaramente mancano altri tipi di aiuti. Mentre un'altra novità, la legge di stabilità, la si trova nella proposta del ministro Franceschini. No, era sempre il Sole 24 Ore. L'IVA sugli ebook al 4%. Sapete che c'è un dibattito in Europa. Abbiamo detto che molto probabilmente, come raccontava la Stampa giorni fa, in Europa si metterà l'IVA al 22%. Invece Franceschini ha proposto, ministro della Cultura, ha proposto un emendamento alla legge di stabilità per abbassare l'IVA sugli ebook, dunque i libri elettronici, al 4%, come per i libri cartacei, cioè a dire un libro è un libro. Non è che se è cartaceo o è un ebook siano cose differenti. E quindi IVA al 4%, vedremo se questo emendamento passa. A proposito invece di anticipazioni, oggi il Messaggero in prima pagina ha una notizia, secondo quello che il Messaggero dice siamo riusciti a vedere in anteprima, di una bozza di un decreto legislativo sull'abuso del diritto che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, e prevede questo, secondo il Messaggero: evasione, niente carcere se non supera i 200.000 euro. Quindi, secondo questo provvedimento allo studio, non solo l'elusione fiscale non sarà più un reato penale, ma anche per l'evasione, o almeno per alcune fattispecie di evasione, il governo è pronto a mettere un freno alle procure, lasciando che a colpire i contribuenti infedeli sia solo il fisco. Insomma, si andrà in carcere solo per evasioni che superino i 200.000 euro. Oggi il tetto è fissato a 50.000 euro. Questo è un decreto legislativo che il Messaggero anticipa e mette in prima pagina. Qui siamo ai reati, Caro Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Ah, buongiorno, mi sembrava che appunto tu stessi parlando di reati senza chiamarmi in causa. Senza l'oste, facevo i conti senza l'oste. Sì, vabbè, lasciamo stare, dai. Sì, devo dire questo. Sei incerto? Stai balbettando? No, hai qualcosa da nascondere? Dire queste soglie del penale. Confessa. Tu vuoi nascondere all'estero? No, perché guarda, che oggi parliamo di IVAF sul Sole 24 Ore. No, niente. Se non nascondi, vabbè. Perché queste soglie del penale sono spesso, come dire, molto efficaci dal punto di vista della comunicazione, ma poi non è che siano così foriere di grandi introiti sul fronte della lotta all'evasione, insomma servono pochino. Vabbè, sarebbe un lungo discorso che potremmo fare magari dopo la partita di questo fine settimana. Chissà se vorrò parlarti dopo la partita. Non lo so, magari io non vorrò parlarti dopo la partita. Speriamo. Tu non vuoi parlare di questa partita, vabbè, allora parliamo d'altro, visto che già hai ricordato l'IVA sui libri, e la misura proposta, perché adesso bisogna vedere cosa dice l'Europa, perché non sappiamo se accettano questa nostra lettura dell'ebook come libro e quindi con IVA ridotta. Parliamo allora delle tasse del giovedì, che oggi parliamo di IVAFE, che è quello che devi pagare sulle tue attività finanziarie all'estero, se ti sei ricordato di dirlo, e poi ti spieghiamo anche come devi fare con i versamenti, cioè quali sono i limiti di pagamento per le tasse di fine mese, gli acconti del primo dicembre e via via tutto quello che verrà dopo. Come hai visto parliamo molto di immobili, ma ti rimando alla lettura della pagina 2 per vedere tutto il carico delle imposte che gravano sugli immobili, compresi i macchinari, che è un po' come dire che in casa ti tassano prima i muri e poi anche la cucina o il letto, insomma, è più o meno è questo l'approccio. E poi ci sono un po' di anticipazioni sulle posizioni del contratto dei bancari tra appunto ABI e sindacati, ma per questo ti rimando alle pagine non di norme e tributi, bensì a quelle di impresa e territori. Ci sono tante cose sulla casa, a proposito, adesso ho citato la questione della casa, perché abbiamo le pagine di Casa 24, tra l'altro timidi segnali di risveglio sulle compravendite con qualche erogazione di mutui in più, ma il tutto è ancora troppo fragile per poter parlare di una vera ripresa. Però in chiusura vorrei dirti una cosa, Alessandro, lo sai che noi stiamo cercando un nome per la tassa, quella unica, la local tax. Lo sai che oggi è venuto fuori che cercano un nome nuovo anche per unico, il modello di dichiarazione dei redditi. Non sei così entusiasta come me di questo nuovo concorso di idee che l'Agenzia delle Entrate non so se dormirò questa notte, no, ci dormirò su questa notte pensandoci. Pensa a un nuovo nome per unico. Vorremmo invitare gli ascoltatori che volessero consigliare noi, ma soprattutto l'Agenzia delle Entrate, evitiamo degli acronimi imbarazzanti, ecco perché su quello potremmo essere specializzati, ma invece potrebbe essere bello trovare un nome che ti faccia venire quasi voglia di pagare le imposte. Non so se qualche poeta potrebbe essere in grado di fare questo miracolo. Milan chi? Esatto. Chiedi a George Clooney, che l'ascoltatore ti dirà qualcosa. Allora, per quel che riguarda sempre l'economia, c'è un interessante articolo di Claudio Tito in prima pagina di Repubblica che parla del dossier privatizzazioni. Certo, il titolo che si legge è un titolo che viene ripetuto periodicamente, cioè il governo accelera sulle privatizzazioni. Non solo questo governo, ogni tanto viene messa questa frase, il governo accelera, ma secondo Repubblica sulla scrivania del ministro dell'economia il dossier si è improvvisamente riaperto con alcune correzioni. Il fascicolo è quello delle privatizzazioni, messo in naftalina nella prima fase del governo Renzi, ora rispolverato. Un paniere di aziende controllate dallo Stato ricco, dall'Enel alle Ferrovie, dalle Poste all'ENAV fino alla SACE, sono pronte a essere in parte privatizzate. Il primo passo sarà proprio l'Enel. Una nuova tranche del 5% di azioni è a un passo dalla cessione. Poi toccherà sul mercato andare il 40% di Ferrovie, e poi toccherà alle Poste, e poi all'ENAV, e poi alla SACE. Insomma, secondo Repubblica, l'articolo poi continua nell'intera pagina, pagina 11, il governo è pronto subito a privatizzare il 5% di Enel e poi sul mercato il 40% di Ferrovie. A primavera toccherà alle Poste. Staremo a vedere. Libero invece titola così, con il classicone piove, governo ladro, sta arrivando di fatto una tassa anche sulla pioggia, la definisce Libero, perché secondo Libero Renzi e il governo vogliono imporre per obbligo un'assicurazione anticalamità sugli immobili per tutti i casi di maltempo. I costi potrebbero andare dai 300 euro di Milano fino ai 1700 euro di Messina, secondo i calcoli che mette Libero a pagina 2. E è chiaro che se imponessero un'assicurazione obbligatoria che tutti devono fare, diventa una sorta di tassa. Salasso fino a 2000 euro con la polizza antialluvione. Questo secondo Libero è allo studio del governo. Arriva la tassa sul maltempo, è già definita così, che poi è l'apertura di Panorama, di cui abbiamo parlato con Maurizio Tortorella, copertina di Panorama, che viene ripresa appunto da Libero. Mentre attenzione, cari dipendenti pubblici, udite udite, perché Raffaele Cantone, a capo dell'anticorruzione, sta studiando qualcosa. Lo racconta Gabriele Isman a pagina 9 di Repubblica, e cioè che cosa sta studiando Cantone? Sta studiando l'obbligo di rotazione territoriale per i dipendenti pubblici. Il personale della pubblica amministrazione potrà ruotare su base territoriale. È una vicenda che parte da Roma, dove il comandante dei 6.000 vigili urbani, Raffaele Clementi, ha elaborato un piano anticorruzione che prevede, tra le varie misure, trasferimenti in zone diverse della città per i funzionari che abbiano prestato almeno 5 anni nello stesso gruppo. Nei prossimi 22 mesi, 850 vigili romani dovranno così cambiare municipio o gruppo. È un modo per contrastare appunto la corruzione. Pare che Cantone voglia prendere questo piano a esempio per fare una sorta di obbligo di rotazione territoriale per i dipendenti pubblici. Salto però sul Corriere della Sera, dove oggi pagina 2 e 3 sono concentrati, e la firma è quella di Massimo Franco, che è una persona molto molto informata su quello che succede in Vaticano, e sul Corriere della Sera c'è un allarme che desta abbastanza scalpore. Minacce e droni, i timori per il Papa. È in prima pagina del Corriere, pagina 2-3, un lungo retroscena. C'è il rischio sempre più concreto di azioni di cosiddetti lupi solitari che si ispirano all'ISIS, quindi allo Stato Islamico, questi fanatici che hanno preso potere in larga parte della Siria. Così ai fantasmi dell'attentato del turco Ali Aca, oggi si somma lo spettro di un'azione eversiva del fondamentalismo islamico, racconta il Corriere della Sera in questo lungo articolo. Ripeto, inizia in prima pagina e poi continua a pagina 2-3. Il timore dei lupi solitari, è stata innalzata la protezione per il Papa. Come racconta Franco, non è un Papa questo molto gestibile. Uno che quando è andato una volta in pubblico ha detto: se avete notato un eccesso di sicurezza, sappiate che io non sono d'accordo. E sono d'accordo con voi, la gente, il popolo. Però il dato di fatto è che i servizi segreti vaticani hanno alzato nettamente le tutele nei confronti del Papa. Non esiste un allarme concreto, un allarme, un indizio di attentati clamorosi, ma ciò che si teme sono proprio i lupi solitari che si ispirano a fondamentalismo islamico, e per questo innalzata la tutela al Papa. Siamo quasi in conclusione? Sì, c'è solo tempo per che cosa? Raccontare che 3 miliardari brasiliani vorrebbero comprarsi la Coca-Cola. Oh, la Coca-Cola, simbolo dell'America. Lo racconta il Secolo XIX con Paolo Manzo, sono Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paolo Lehmann e Marcel Hermanteles. Sono miliardari, forse non per voi sono sconosciuti, ma hanno patrimoni di miliardi e miliardi di dollari. Vorrebbero comprarsi, secondo indiscrezione di Forbes, la Coca-Cola. Staremo a vedere. Ma siamo al momento conclusivo. Oggi io ridevo come un matto alle 6.30 in redazione su Libero. Daniela Mastro Mattei dedica una pagina a quella che è una foto che già ieri circolava. La violenza sessuale di un'otaria disperata nei confronti di un pinguino è stata notata da alcuni ricercatori. Ci sono pochi e poche femmine, quindi l'otaria, il maschio otaria, ha preso un pinguino. Il titolo di Libero: la foca non è più monaca e stupra i pinguini. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:20 minuti in punto. Ben ritrovati da Alessandro Milan, e non è la prima volta che ci occupiamo di scuola e di casi come quello che vogliamo raccontare, stando almeno ai resoconti, alle denunce dello studente di Assisi, che dice: sono stato picchiato con pugni, calci, addirittura una presa per le mani al collo, e questo sarebbe, usiamo il condizionale, avvenuto qualche giorno fa all'istituto alberghiero di Assisi, dove un insegnante, apostrofando un ragazzo dicendogli: è brutto essere gay, eh? E alla risposta del ragazzo sfrontata: è già da quando ho inconosciuto te. E da lì pugni, calci dell'insegnante, denunce penali, ovviamente tutto da chiarire, e saluto e ringrazio la preside dell'istituto, Bianca Maria Tagliaferri, che è qui con noi. Buongiorno professoressa e grazie per essere qua. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Senta, non voglio entrare nella vicenda perché tanto ci sarà... Ci sono gli accertamenti, esatto, delle autorità competenti in corso. Quindi. La cosa che però ha colpito un po' di persone, ieri Filippo Facci lo scriveva sul Libero, è: ma come mai il ragazzo per sua tutela è stato, immagino, spostato dalla classe? Il professore al momento è ancora lì. Dunque, voglio subito chiarire che fin da quando abbiamo appreso della notizia, sia la mia vigilanza, sia la vigilanza dell'ufficio scolastico regionale, che ha collaborato subito insieme alla scuola, è stata alta, costante e continua, e dura ancora adesso doverosamente. I provvedimenti che nella fattispecie le autorità amministrative, quali siamo noi come istituzioni scolastiche, l'ufficio scolastico regionale, possono porre in essere, sono provvedimenti appunto amministrativi che hanno i tempi tecnici in uno stato di diritto qual è il nostro. Sì. Contemporaneamente ci sono le indagini delle autorità inquirenti che evidentemente hanno ritenuto che appunto... Ma lei tecnicamente... La tutela del ragazzo naturalmente concordandolo, no? Con certo, però mi faccia capire, tecnicamente lei potrebbe, sì, in quanto preside, sospendere un professore perché di fronte ad accuse, anche se ne ha ancora tutte da provare, così gravi, come dire, per il momento è meglio che stai a casa un pochettino, oppure no, non può tecnicamente? No, appunto, come lei ha detto adesso, devono essere accertati i fatti, laddove non ci sia una versione univoca, e quindi non lo posso fare io, non lo può fare l'ufficio scolastico, insomma, ecco. Nel frattempo però le cose sono state avviate e quasi concluse a procedura, penso che in questi giorni l'ufficio si pronuncerà. La mia fase istruttoria è finita ieri. Cioè lei ha sentito il professore, immagino, ha sentito la famiglia. Siamo in uno stato di diritto, appunto, tutte queste cose, non solo io, l'ufficio scolastico insieme a me, che, torno a dire, ha attivato tutte le procedure che dobbiamo porre in essere. E si può sapere qual è la sua versione? Nega tutto, nega i fatti? Abbia pazienza, appunto, ripeto. Sono due cose parallele, guardi. Da una parte c'è tutta l'azione amministrativa posta in essere sia dall'istituzione scolastica che dall'ufficio scolastico regionale, no? E sono appunto atti che comunque, fin tanto che non sono conclusi in via definitiva, dobbiamo tutelare. Dall'altra c'è l'indagine delle autorità inquirenti. E questa come lei farà detto, il suo corso, no? Chiaramente ci sono delle denunce. Quindi sarà un pochino più lunga l'altra delle però autorità. Preside, mi faccia salutare, le presento Alex Corlazzoli, che è stato già nostro, sì, ospite, è un giornalista, è un insegnante, è un autore di libri sulla scuola, anche un blog sul Fatto Quotidiano. Buongiorno Alex, ben ritrovato. Buongiorno Milan, buongiorno la preside. Allora, come lo stupore, ripeto, non dobbiamo giudicare, vedremo il corso degli eventi. A me ha colpito un po' il fatto che il professore sia ancora lì di fronte a queste accuse. Alex, a lei ha colpito oppure no? A me ha soprattutto stupito il fatto che ancora una volta in Italia sia accaduto che di fronte alla parola gay, al pronunciamento di questa parola, sia successo qualcosa. Questo che... è un altro aspetto effettivamente un pochino inquietante. Sì, inquietante, perché tutte le volte che in Italia esce questa parola, sia nella versione del ragazzo che sia nella versione del professore, a noi in questo momento non lo possiamo giudicare, immediatamente c'è qualche fatto che accade veramente vergognoso, perché che sia una versione o che sia l'altra è accaduto qualcosa. Ora, questo è sintomo di che cosa? Ma è sintomo di una responsabilità gravissima della politica. Oggi perché di fronte alla parola gay succede immediatamente che un professore reagisca o piuttosto che un ragazzo reagisca? Perché non c'è educazione sessuale nelle nostre scuole? Ma quanto ci vuole capire che è venuta l'ora, che i tempi sono scaduti per lasciare nelle mani di qualsiasi persona l'educazione? Qua siamo di fronte veramente a un'emergenza. È dal 75 che c'è depositata, da quando sono nato io, è depositata una legge sull'educazione sessuale che mai è arrivata porta a termine. Certo, quanti casi dovranno cadere di questo tipo ancora finché veramente ci si assuma questa responsabilità? Il fatto poi che il professore sia ancora lì, certo, la Prese non ci ha spiegato che cosa può fare e quali sono i limiti entro i quali invece può si deve muovere una Prese che è responsabile di un istituto e anche entro i limiti entro i quali si deve muovere il provveditorato agli studi. Che dobbiamo certo. dire, Corlazzoli, che ci deve scandalizzare questa cosa che il prof sia ancora lì? Ma io credo che sicuramente ci deve non tanto scandalizzare, perché sicuramente è anche uno strumento di tutela nei confronti del professore questo, non sappiamo come sono andati i fatti. Certo è che gli strumenti che ci sono nelle mani dei dirigenti in questo momento sono deboli. Oggi un dirigente neanche può sospendere, diciamo, un docente per un periodo. E fatti di questo tipo, io sono convinto che ne accadono tutti i giorni. Il problema è che il dirigente non lo può sapere, il dirigente non è che riesce ad intercettare tutti i casi che capitano di questo genere, e spesso quando li intercetta neanche ha la possibilità di agire. Sì, soprattutto, esatto, non può agire. Prese, lei ci conferma che è così, non può agire, cioè non ci sono gli strumenti normativi che le consentirebbero di fare qualcosa di più di ciò che lei ha fatto. I dirigenti scolastici vengono dal vecchio ruolo di presidi, che era un ruolo didattico, pedagogico, quale io sono, faccio la preside da 21 anni. La dirigenza è stata sempre un po' una dirigenza particolare nell'ambito scolastico. La scuola è un'organizzazione a legami deboli, ha detto bene il professore, vedo che conosce molto bene i meccanismi. Dopodiché io ci tengo a sottolineare un fatto, che questa scuola è una grande comunità scolastica, sono 1050 ragazzi, 132 docenti, di cui 29 di sostegno, 51 classi con 64 disabili, 120 DSA, 140 non comunitari. La cosa che anche, oltre che per il ragazzo e tutti i soggetti coinvolti, mi dispiace, è che abbiamo fatto negli anni cose meravigliose, siamo scuola certificata UNESCO. Invece si parla della scuola per questa vicenda. Nessuno è venuto mai a chiedermi, invece c'è stata questa gogna mediatica sulla testa del figliolo, del ragazzo, della famiglia, è nostra. Insomma, c'è una grande comunità docenti dentro l'istituto. Ma su questo non c'è dubbio, e io capisco. C'è lo spirito di Assisi in quella terra. No, ma io capisco. Che uno sia laico, che uno sia religioso. Insomma, respiriamo, siamo molti, non io sono l'ultima, la dirigo da 15 anni quella scuola, ma sono l'organizzatrice, la responsabile, ma le garantisco che dentro le aule la maggior parte, la stragrande maggioranza dei docenti fa seriamente. Ma io guardi, preside, questo io credo che nessuno lo metta in dubbio. Non e capisco parlare di scuola e capisco anche la sua rabbia. Anche per no, ascolti, io non sono una no, ma nel senso rabbia no. A dire, ma come con tutto quello che facciamo andiamo sui giornali per questa vicenda. Ci tengo a difendere la mia comunità scolastica, perché torno a dire che sono bene. Tanti soldati, fra virgolette, là dentro. E cioè, fa bene. Stanno lì tutti i giorni a presidiare, ad ascoltare i ragazzi. Però lei è d'accordo? Ha sentito? Sì. Anni. Ha sentito? No, non è chiaro. Al professore, ci sono da 15 anni gli sportelli d'ascolto con l'ASL e anche progetti di educazione alla sessualità, alla prevenzione del tossicodipendente. Ha ragione, però lui, bisognerebbe incrementarli, non farli solo con le nostre forze, avere intorno appunto una rete ulteriore per poter lavorare. Cioè, secondo lei ha ragione quando Corlazzoli appunto dice ci vorrebbe, cioè l'aspetto del gay, dello sfondo sessuale, l'ha colpita di questa vicenda oppure era un pretesto per vedere quello che è successo e poi vedremo che cosa è successo? Guardi, torno a dire quello che dicevo prima, se i fatti saranno accertati in questa maniera, indubbiamente, come dice il professore, probabilmente più che andare a vedere ad eventuali contatti fisici si è andati a vedere questo aspetto. Quindi ecco, veramente bisogna lavorare molto sulla cultura della tolleranza. Le scuole lo fanno, ma lo fanno con pochi strumenti e senza protezione esterna. Abbiamo bisogno di investire sulla cultura per le scuole. Se dovesse essere accertato neanche sugli edifici che ci stanno, le chiedo questo, e questo un po' è vero, preside, le chiedo questo: se dovesse essere accertati i fatti, questo professore non insegnerà più, voglio sperare. ho detto non sono io a decidere questo, adesso si stanno accertando, non sono io. Ah, è chiaro, era un suo pensiero. Di sopra di me che stanno lavorando molto, ripeto. Il mio pensiero, guardi, vi restituisco non il mio pensiero, il pensiero dei ragazzi e dei genitori, che dei genitori degli altri ragazzi che comunque stimano e apprezzano il professore, quindi sarà da vedere, poi deciderà l'ufficio scolastico. Intanto preside, la ringrazio. Corlazzoli, a conclusione, che possiamo dire di questa vicenda, della quale torniamo periodicamente a parlare, no? Abbiamo fatto altre puntate a Treviso e poi in altri casi, insomma siamo così, ci sono pochi strumenti, dice la preside. Mancano davvero. Poi siamo di fronte a un evento che è quello dell'errore, insomma, l'errore che diventa orrore, insomma, davvero, l'errore umano, l'errore di un docente, che sono tra l'altro poco sostenuti, insomma, dal punto di vista della formazione, vero formazione in Italia, ricordiamo, vero formazione, e neanche in futuro ci sarà probabilmente, perché di investimenti non se ne vedono. C'è poco sostegno psicologico per i docenti, insomma il docente quando entra in classe ha a che fare con dei ragazzi, con degli esseri umani, non è una persona che ha a che fare con dei personal computer in ufficio, per sì. Cui che può entrare in un giorno che è arrabbiato, può entrare in un giorno in cui non le ha a casa tutte, come si suol dire, insomma, e deve tentare ogni volta di essere al di sopra, insomma, anche in questo caso, se fosse vera la versione del ragazzo, quel docente doveva solo tentare in qualche modo di avere... Fagli passare sopra questa cosa, sì, fagli passare sopra. Ma questo è possibile quando c'è veramente uno star bene in classe, che a volte diventa anche difficile, a volte soprattutto nelle scuole superiori, stiamo parlando di una scuola superiore, non è facile. Sono entrato in scuole superiori dove c'erano ragazzi che stavano con il cappuccio sopra la testa alle 10 del mattino, insomma. Quindi serve veramente essere lì. Ai miei tempi partivano magari quei meno sul registro che facevano terrore, adesso se ne fottono, diciamolo francamente. Allora io ringrazio anche Alex Corlazzoli, alla prossima ovviamente, quando parleremo ancora di scuola, magari di tematiche di scuola un po' meno cruente, un po' più formative. Dopo la pubblicità sarà ai nostri ospiti e ai nostri microfoni Francone Fiorito, ve lo ricordate? Air Batman, come è stato soprannominato, anche se lui dice, ma questo soprannome, cercheremo di capire anche questo soprannome. Francone Fiorito ha scritto un libro, uscirà tra qualche mese, la questione dei rimborsi del Lazio. Lui, ai nostri microfoni. 24 mattino. Allora eccoci qua, le 8:39 minuti. Ieri il fattoquotidiano.it pubblicava una serie di frasi che l'ex capogruppo alla regione Emilia-Romagna Monari ha detto in una riunione nella quale per la verità non sapeva di essere registrato da un suo collega Andrea De Franceschi, frasi ma qualcuno è irripetibile, sulla Gabanelli che mi fa venire l'orchite, su Monti piscio sulla sua foto, oppure ma se mi mettono in carcere magari trovo un troione brasiliano, insomma scherzava, frasi da caserma. La vicenda però era quella degli scandali per i rimborsi pazzi della regione Emilia-Romagna. Chi può parlare di questo tema, perché ne è finito triturato mediaticamente certamente e anche per la verità giudiziariamente, ha avuto qualche problema, è lui, è Franco Fiorito. Buongiorno Fiorito, come sta? Sono tritato, buongiorno. Tritato, triturato, sì. Franco Fiorito, ex capogruppo PDL alla Regione Lazio, ex condannato per peculato. 3 anni e 4 mesi lei ha patteggiato, per la verità, perché cos'è? Aveva trasferito 1 milione di euro di soldi. Sbagliatissimo. Quanti ne abbiamo trasferiti? Fatto ricorso in appello, non abbiamo mai patteggiato. Avete fatto ricorso? Con rito abbreviato. Errore da un articolo di ieri che no, con rito abbreviato. No, con rito abbreviato è stato condannato a 3 anni e 4 mesi in primo grado, ovviamente, per aver trasferito. Non scelto da me. Vabbè. Per avere trasferito quanto ha trasferito sul suo conto soldi riconducibili? Circa 1.090.000 euro. Ma perché l'ha fatto? Cioè, intanto, perché? Semplicemente perché al processo di primo grado è stato dimostrato che mi erano stati dati esattamente quei soldi per le cariche che rivestivo. Tra l'altro, se mi dà l'occasione di dire che a forza di spese pazze, credo che alla fine in Italia si scoprirà che sia l'unico di non averle fatte queste spese pazze, a non averle fatte, perché poi la questione della Jeep hanno restituita, il SUV assolto, i viaggi assolto, tutti quanti, insomma un grande polverone che però ci lava dietro un, ovviamente uno sdegno per i rimborsi in generale, e quindi diciamo una questione senza dubbio rilevante. Però se dice un esempio di rimborsi elettorali alti, rimborsi dei gruppi alti, sono certamente io. Un rimborso di spese pazze probabilmente sono gli altri, perché poi... Però lei ha deciso di scrivere un libro che uscirà, credo, a gennaio, febbraio. Sì, siamo in revisione, quindi... Per chiare lettere. Il sistema, il sistema. Racconterà, immagino, come funziona questo. Ma intanto, è così facile rubare soldi? Non mi riferisco alla... In generale, gli articoli che si leggono nelle regioni, nelle regioni italiane. Non mi sentivo incluso. È molto facile approfittare, sì, e soprattutto è molto facile, almeno nelle leggi, fino anche alle attuali, averli a disposizione. È una specie di sistema, come vogliamo dire, che diciamo in maniera indiretta rifinanzia le attività della politica o dei consiglieri, poi bisogna vedere se è sempre meritorio o meno. Ho capito, però è un sistema che finché piaceva, piaceva a tutti, immagino anche a lei, cioè lei non è che è arrivato e ha detto adesso denuncio questo scandalo di sistema perché non se ne può più, è uno veramente se, leggendo il libro lei troverà un paradosso, che il primo a denunciarlo fui io, poi fui distrutto dal resto della ciurma. Però al di là di questo saremmo ipocriti a dire che se ti vengono assegnati libera determinati soldi anche molto corposi e noi abbiamo detto di rifiutarlo, no, non è vero, come ogni buon italiano, come ogni italiano diciamo debole, abbiamo anche noi accettato questo tipo. Cioè dice che il sistema crea, poi ti corrompe, ti mette un po' di, come dire, di marciume dentro e uno rischia di... Diciamo, personalmente non pensavo in quel momento di stare a fare cose di terribile fattura, pensavo di essere un privilegiato perché in base alle cariche, agli incarichi, essendo stato il primo degli eletti, avevo più incarichi politici e sarebbe stata proprio una fortuna per l'attività politica. Poi su quello, se leggerà il libro, capirà che tutto l'innesto di queste spese pazze è servito un po' a creare attenzione su quel tema più che su quello tecnico. Sì, senta, ma che effetto le fa vedere che dovunque succede uno scandalo in Italia si dice eccolo qua, il fiorito dell'Emilia, il fiorito della Valle d'Aosta, il fiorito della Liguria, il fiorito della Lombardia? Diciamo questo corrisponde perfettamente alla mia tesi iniziale, che avendo il physique du rôle e avendo diciamo per primo incappato in queste vicissitudini giudiziarie, essendomi state affibbiate una serie di cose, lei sa che le ostriche, le cose, quelle, io non sono stato nemmeno mai indagato per quelle cose, lo hanno fatto altri consiglieri i quali non sono stati neanche indagati, ma da questo punto di vista era bene che nel momento si creasse un simbolo di questo tipo di attività. C'era la Regione Lazio che era in bilico e questo è servito a farla cadere, la necessità di far capire che all'interno delle regioni determinati meccanismi non erano più accettabili. Io sono capitato al momento giusto, con il fisico giusto, con il capro espiatorio un po'. Ma guardi, io non l'ho mai usato questo termine, né mi piace molto, perché poi anche se nella Bibbia il capro espiatorio non sempre muore, molte volte lo lasciano solo nel deserto e sopravvive, almeno così dalle sacre scritture. Ma il problema è un altro, è che di sicuro è stata enfatizzata la mia vicenda perché si voleva creare un esempio importante. Quell'esempio importante che forse secondo alcuni doveva rimanere isolato, cioè fare scuola, fare avvertimento per i consiglieri regionali, non mi sembra che sia stato così. No, però lei si difende un po', si difende un po' craxianamente, cioè dire se anche fossi stato parte di un sistema non ero certo l'unico, e quindi tutti gli altri... Diciamo, desidero distinguere esattamente questa cosa. Se si parla di spese folli, che le persone sono comprate la macchina, la vacanza o altro, io con molta fatica ho dimostrato già nel giudizio, tanto che non sono stato condannato per nessuna di queste cose, e avendole pagate io regolarmente, alcune non essendo mai avvenute, allora lì c'è lo spreco, quello maggiormente ovviamente fastidioso per i cittadini. Se invece lei dice sì, lo spreco del denaro pubblico perché si danno troppi soldi ai consiglieri, di certo faccio parte di questo, di certo però non ero l'unico, perché in base alle delibere che hanno dato i soldi a me, così come il primo giudizio, gli stessi soldi identici venivano dati a tutti gli altri consiglieri. E quindi lei dice perché io sono stato condannato e gli altri no. Io mi trovo in questa singolare situazione. sono stato simbolo di spese che poi scoperte tutte fatte da altri, e i quali poi non indagati. Quindi se lei dice oggi, perché era il capogruppo, lei era il capogruppo, certo, quindi, ma no, perché all'epoca c'era questo sport di dover attribuire tutto a me. Tutti pensano in Italia che io sia andato a cena ostriche e champagne, invece poi qualche volta l'avrà fatto, bene. Dai, lo dica, mai. Volta. Mai non mangio mai. Ostriche, io lo sanno un po' tutti, sono carnivoro, non sono tra i miei piatti preferiti. E né mai io sono stato indagato per una cena, nemmeno per un'altra. Quindi questa è una cosa, però insomma, credo che anche lei si sia formata questa opinione come tutta Italia, ma insomma, a leggere i giornali qualcosa sì, però la macchina dice l'ho restituita, qualcosa insomma sembra come dicono molti ascoltatori di SMS adesso, che sia fiorito santo subito, questo no, però lei stesso ha detto no, però santo, diciamo, santo io no. Vorrei nella colpevolizzazione, nella santità, basta la verità, allora una delle verità è questa, riprenderemo da qui dopo il traffico, che lei non riceverà, dica agli ascoltatori, sì, che certo. Gli indichiamo chi sono coloro che hanno fatto quelle cene, accertate dopo lo facciamo, allora lo facciamo e dopo, li vanno a contattare al posto, io sono più felice dopo il traffico li fa i nomi, e anche ci spiegherà il fatto che lei è un po' sdegnato, almeno ho letto un'intervista su Il Giorno, perché lei non riceverà il vitalizio, e dice praticamente ha fatto una legge ad persona, o meglio contra persona, ma contro di me, mentre tutti gli altri lo riceveranno. 24 mattina. Allora siamo con Franco Fiorito, rispondo all'ascoltatore che mi dice: ma Milan vuoi far passare per santo un ladro? Io non voglio far passare né per santo né per ladro nessuno, ci sono le magistrature, io faccio un'intervista, sto facendo un'intervista a Franco Fiorito, ma lei insomma, chiedere scusa agli italiani per qualcosa, ma se la sente? Per ladro intendeva me, perché è proprio fuori strada il signore. Vabbè, è chiaro che intendeva lei, è ovvio, Fiorito. Ho capito, ma purtroppo scoprirà col tempo che non sarà così. Vabbè, però tre anni e quattro mesi di carcere. Sì, in primo grado, dopo che ne hanno chiesti 8 e senza la possibilità di difendermi, perché lei sa che il processo abbreviato congela le prove in quel momento, sì, e non ti dà la possibilità di avere. Ma chi l'ha chiesto? Il suo avvocato? Cioè, non l'ha voluto leggere? No, è stato una specie di. Lo ha scritto il GIP nell'ultima ordinanza in cui mi rifiutava la scarcerazione, che o mi dimettevo e accettavo il processo abbreviato del patteggiamento, oppure non mi avrebbe mai cacciato dal carcere. Quindi io, in quel momento, diciamo, dopo una richiesta così palese e così cristallina, non volendo mai atteggiare che durerebbe una. Però neanche il calcio era bello, dice. Ho dovuto accedere. Senta un po', ma. Non si dovrebbe fare più trasmissioni, perché è un luogo veramente orribile. No, ma infatti adesso le chiedo del calcio. Lei agli italiani qualcosa per cui chiedere scusa, se la sentirà, oppure viene qui a dire che è tutto lei, no, non c'entra niente? Non è che vengo qui, mi avete invitato voi, io vi racconto un'esperienza molto volentieri. Io gli darei di errori nella mia vita, in questa vicenda io sicuramente ne ho fatti tanti, senza dubbio, dicevo prima, sarei stato un ipocrita a dire che l'ho fatto, quello di rifiutare i soldi sarebbe stato un gesto ovviamente consono a una morale superiore rispetto a questo, però in quel momento io ovviamente non me la sono sentita, non credo che tutti gli ascoltatori insomma abbiano questa forza morale. Per il resto, errori tanti in questa gestione, in quella di non aver invece fatto subito determinati passi, perché quando leggerò il libro scoprirà che io contestai agli altri consiglieri da capogruppo, sì, già dal 19 di luglio con alcune delle lettere per iscritto. Sì, questo me lo ricordo, questo uscì, poi, però questo uscì. Uscì, però diciamo, il giudice, allora era lui che si voleva difendere, in realtà io ho scritto alla procura e ho anche consegnato quelle lettere. Un caso strano, gli stessi consiglieri mi fanno cadere da capogruppo per evitare che quella cosa venga trascinata dentro. Senta un po', però lei non prenderà il vitalizio, ma la gente dice: ma è il minimo che uno come Franco Fiorito non prenda il vitalizio. Adesso lei si lamenta. Questo è un altro errore. No, io non mi lamento, e lei se l'ha capito così, ha letto male l'articolo. Io ero stato intervistato sulla questione dei vitalizi. Se vogliamo, non la santità, ma la verità, dobbiamo spiegare che io sono costo zero per la Regione Lazio, perché i soldi che sono stati dati a me io li ho presi e ridati all'inizio, prima dell'inizio del processo, alla Regione Lazio. Sì. Quindi io non sono costato una lira all'amministrazione regionale del Lazio. Non costerò neanche una lira, perché secondo la legge attuale fatta cucita su di me non prenderò il vitalizio, quindi non era una lamentela. Tra l'altro io sono ancora discretamente giovane, quindi non ho questa prospettiva, ma nel caso non è un problema. Era solo per dire che se mi indicate come una spesa per la regione, beh, io sono costato zero. Se mi indicate come una spesa del vitalizio, sappiate che io non vitalizio lo prendo. Non lo quindi prenderà mai. Ma come vive adesso? Lei che fa? Ha uno stipendio? Io adesso sono un beato povero tra i poveri disoccupati di questo paese. Beh, dai, però qualche soldo da parte sarà riuscito a metterselo, no? Beh, veramente non molti. Non molti, non molti. Povero, povero e disperato. Povero e disperato. No, no, disperato no. Guarda, no, disperato. La cosa, eh. Senta, ma in carcere. Il mio orgoglio l'ho sempre mantenuto. Vivo meglio di prima. Se dovessi dire. Il carcere, lei ha fatto 3 mesi, giusto, Regina Celi? 3 più 3 a casa. Sì, però diciamo di detenzione domiciliare, ma il carcere, come ci può insegnare, è il posto veramente dove ti cambia la vita. Come l'hanno data a me, che non potevo neanche mettere fuori dalla finestra, nemmeno incontrare. Sì, però è diverso stare in una cella. Non aprire internet, non potermi affacciare alla finestra, non poter vedere la fidanzata, insomma. Senta, che effetto le fa sentire che in Emilia facevano le battute sul carcere? Ma sì, se vado in carcere mi trovo un troione brasiliano, mi diverto, eccetera. Lei il carcere l'ha visto, non è così? Non lo so, io, a prescindere dai gusti del singolo consigliere, non sulla modalità di prova è particolare. In realtà è molto illuminante quello che è stato detto. La battuta, lei calcoli di 2 anni fa, quindi diciamo, se lei paragona la velocità del mio processo alla lentezza degli altri, nonostante poi si arrivi alle stesse conclusioni, è già indicativo di quello che le dicevo prima, che serviva un approccio immediato rispetto a questo. In realtà quelle dichiarazioni che lei mi cita, che io ho letto su un noto quotidiano, mi hanno colpito per un'altra cosa che diciamo va a suffragare un po' quello che è sempre stata la mia opinione. Io invece di nascondermi come tutti gli altri consiglieri, sparire, andai in una nota trasmissione a Porta a Porta a spiegare esattamente agli italiani come funzionavano, dando anche le cifre esatte di quanto prendesse un consigliere regionale. Lì iniziò il suo massacro mediatico. Lì iniziò il mio massacro mediatico, che lì c'era la paura che gli italiani capissero quanto era vasto quel movimento e soprattutto quanti soldi in realtà prendevano i consiglieri regionali. E io sono arrestato, mia convinzione, ma anche scrittura del giudice, quasi esclusivamente per quello, perché una delle due motivazioni principali dell'arresto è che attraverso la strumento televisivo avrei potuto condizionare gli italiani e eventualmente i testimoni. Sì. Vabbè, capisca qual è questo motivo. Intanto si rifaccia con il libro. Io ho 30 secondi per chiudere. Uscirà questo libro. Il sistema, le chiedo, ma lei è vero sta cosa del Batman? Ma esiste sta roba? È una leggenda. Ma è completamente inventata. Ma che inventata? Proprio... Qualcuno l'avrà inventata. Che dicono che lei vuole salire su una moto. A pranzo, lei chieda a uno che mi conosce. Che lei voleva salire su una moto, è caduto e eccolo qua, il Batman. Guarda, intanto io non ho mai avuto un Harley Davidson, guido moto da quando avevo 12 anni. Sarà caduto almeno 8. Non sono mai caduto dalla moto in vita mia. Quindi il Batman è tutta un'invenzione. Io guido una BMW CS2 Adventure, che è la moto più grande in vendita in Italia, quindi credo che voi su questo tema siate proprio mal informati. Ma anche il soprannome, se lei bene ci pensa, è stato un pinto, la ciliegina sulla torta della creazione di un'immagine che è quella che serviva a propagandare. Quindi il Batman è tutto un'invenzione, non esiste. È completamente un'invenzione, non c'è mai nessuno che mi ha chiamato Batman. Grazie. Se poi mi chiede se mi piace, a me piace il personaggio e quindi lo terrà. Ah, va bene, lo terrà. Grazie, in bocca al lupo, Franco Fiorito. 24 mattino.